vabbè, no, quella è roba tutta. Guarda, ti dico una cosa, se tu lasci la birra, va, lasci la birra e provi col pesce, provi il vino bianco, guarda, fresco, ma bello fresco, no? Ti dimentichi la birra, ti dimentichi. Ah, che mi sono bevuto un coso un giorno io, no? Ti parlo io di dicembre, lo sai, a dicembre c'era... Nessuno ci ha detto niente, la verità, perché nessuno ci ha detto niente. Sono stato male, veramente male, cazzo. Avevo questa tosse, questa febbre, non riuscivo a cavare i piedi, cazzo. Tosse, febbre, eccetera, eccetera, cazzo. Mi sono bevuto, non ce l'ho messo qualcosa, l'unica cosa era, mi sono bevuto una bottiglia di vino. L'unica cosa era quello, per farmi passare l'influenza. Invece... si è scoperto adesso che in pratica questo coronavirus era da dicembre che ce l'avevamo, nessuno ha detto nulla. Ah, pensavo che stavi dando la colpa al vino, perché il vino non te ne va di venire né con coronavirus e né fredda. Anzi, te l'annulla, vero Marco? Marco ci sta sentato, no, ma è già vero, guarda che io sono stato veramente male, mi guarda. Il medico mi ha detto, ci prendi tachipirina, una tachipirina la mattina e poi un antinfiammatorio la sera. Mi ha detto, una l'ho fatto, una all'altra, una parte, una all'altra, cazzo, mi ha fatto male. Ho preso la volta, la fanculo del medico, sono stato 2 giorni senza pigliare le pastiglie. Mi sono bevuto una bottiglia di quel vino mio frizzante che aveva lo spirito, da solo mi ho cenato, non c'avevo più un cazzo, né tosse né niente, è passato tutto. Poi, cioè, dopo tanto tempo adesso che venga a sapere che in pratica con la virus ci eravamo direttamente, in pratica da dicembre, nessuno ha detto niente, dicembre-gennaio. Quindi io ci sono già passato. Grazie a Dio sto bene, se a me mi fanno il tampone sono sicuro mi trovano positivo all'alcol, ma non al coglione virus. E vabbè, quello non era, secondo me era prima, molto prima questa storia qua, vabbè, a noi ce l'hanno fatto sapere solo dopo, fatto sapere. Adesso c'è Marco che sta tenendo, gli sta scappando, secondo me... Lui ha preso al volo quello che gli ho detto io, adesso sto prendendo il gatto alla cola a buttarlo dentro il forno. Soprattutto con la grassoccia, me. Ne abbiamo una più snella di gatta, no? Sono 2 femmine. E una più grassoccia. E quella deve essere buona mia, a parte gli scherzi, però, poverina. Allora, sai cosa sto facendo? Perché proprio non voglio accendere i fornelli. Ho preso quel pane. Il pane bianco, fette, tipo pancarré, però più grosso. E metto un filo di maionese, un po' di tonno, se c'è un pomodoro me lo affetto, e mi faccio un tramezzino, o 2 anche, tonno e pomodoro, o anche tonno e pasta. E io ho mangiato. Se c'è frutta, mi mangio un frutto, pasta è la giornata. Oh, Marco, io a volte, sai cosa faccio? Io ho quella pancetta fatta in casa, no? Ogni tanto me ne regalano un pezzo. E cosa faccio? Mi affetto un po' di pancetta, bella fine fine, e anche la cotenna ci metto in mezzo, perché è morbida morbida. Poi ci faccio 2 pezzi di belga, sopra 2 fogli di belga, un pomodoro. Poi ci metto delle sottilette, il formaggio, no? Delle sottilette, mi faccio un bel panino doc, mi faccio, e poi vai col vino, perché io birra non ne bevo vino. Ehi, guarda, è così mi hai ricordato i panini del fast food, no? E mettevano la carne che volevi tu, poteva essere hamburger, poteva essere carne di maiale, poi un'insalatina, il formaggio, quelli di Renato, mamma mia, bei tempi. E riuscivo a mangiare anche roba grande, perché vedi com'è fra. Io mangio spesso, ma mangio poco, perché perché lo stomaco è come se fosse piccolo, no? Come se fosse rimpicciolito. Quindi anziché fare grossi pasti, mangio poco ma più spesso. Alla fine gioco sempre ma niente. Sì, perché tu per organizzarti gli orari, tu cosa devi fare? Devi organizzarti un orario, devi organizzarti e mangiare. Perché certo non prestare male poi, mangiare perché non ti sazi, tranquillo. Poi ti stai, aspetti, per dire, oggi mangi all'una, poi alle otto di nuovo devi mangi, ma magari tra le otto, dall'una alle otto, ti mangi una merendina, la sera ti mangi e agguanti, o una mela, o una banana, qualcosa, una merendina, qualsiasi cosa, e poi mangi di nuovo alle 8 e ti ripigli l'orario, ti ripigli, perché mangiare agli orari che fai tu non mi sembra tanto giusto, no? Vabbè, anche quello è vero, però ricordati che poi è tutto proporzionato, cioè la mattina mi alzo più tardi, colazione più tardi, pranzo più tardi, cena più, cioè tutto un po' commisurato. Diciamo che ho l'orario spostato, però poi a proposito di mangiare, io mi ricordo che tanti anni fa, ti parlo del 90 e dintorni, no, all'inizio degli anni 90, io riuscivo a mangiare una pizza gigante, sai, di quelle belle piene. Adesso invece, proprio perché lo stomaco sembra meno capiente, faccio fatica a finire anche una pizza normale, cioè arrivo proprio che me ne escono gli occhi, è come se lo stomaco fosse più piccolo. Poi sempre in quegli anni, quando mangiavo di più, ero stato un periodo che andavo un giorno al Bandiera Gialla, un giorno al McDonald's, perché a me piace comunque il sapore dei panini, mi piace, indipendentemente poi che siano grassi, eccetera. Un giorno Bandiera Gialla, un giorno McDonald's, beh, mi era venuta questa pancia, sembravo incinta di 8 mesi, proprio la pancia in fuori, proprio per un'alimentazione, e mangiavo abbastanza all'epoca come volume. Beh, risultato che non tolleravo la cintura, mi sono dovuto mettere le bretelle e avevo questa pancia, sembrava quella cosiddetta ascite che viene a chi ha la, come si dice quella al fegato, la cirrosi. So che io non avevo cirrosi e non bevevo nemmeno. Poi piano piano sono riuscito a scalare, sì, adesso c'è un po' di pancia di stomaco, ma tipico dell'età, no? Di questa età qua. E mi sono ridimensionato, certo che è vero che comunque mangio pasticci, cioè mi piace ancora Nutella col pane, bibite gassate, naturalmente adesso non fa danno questa roba, no, anche questa roba dolce, roba gassata, però poi con gli andare degli anni la glicemia potrebbe essere alterata, capito? Cioè lo pagherò dopo io quello, le cose che mangio adesso un po', le pagherò in seguito, i grassi, gli zuccheri, eccetera, eccetera. Vai Antone. Sì, c'è la panicottura che mi ha mandato tu stasera, che viene 178,66 euro. Di 16 CD di grandi dimensioni AT 555N AMFM USB PV CW 10 Netter da 28 29,7, 40 canali CB eccetera eccetera da scelta. C'è anche un coso, lo sconto di 2,78 su AliExpress per esattezza, adesso l'ho visto. Ma tu stai dicendo questo qui? Esatto, sì, quello lì. 178,66 costa adesso. Costava 184,23. C'è 20% di sconto oggi. Io non mi ricordo che nome abbia l'anettone. Sì, mi pare che ci abbia una sfilza di 5 o dei 6. Comunque questo è della CRT France. CRT SS, naturalmente sta per Superstar, 7009. D'aspetto di bello c'ha lo Smithar, no? C'ha il fondoscala 960, poi non lo so se ci arriva nemmeno al 960, ci vorrebbe uno sotto casa con la macchina e controllare. Poi c'ha la scala di watt, sempre, comunque sempre a livello di baracchino, e sotto mi segna le stazionarie, che da quello che vedo sono sicuramente fasulle quelle che segna. Comunque bellino, sembrano uguali, è un po' quelli lì, quei tre apparati, gli ultimi presi, sembrano tutti uguali, sembra uno la fotocopia dell'altro, cambia l'estetica, ma poi le funzioni sono le stesse, e anche i menu. Vai Franco. Capo, ma dimmi una cosa Marco, la Nippone c'ha 30 watt c'ha? Dipende che modello, perché a Nittone ne fa una marea, allora questo in questo caso ne ha dunque 12 AM, 30 FM, 30 SSB, invece il 9009, quello che è più piccolo, no, di apparato, c'ha 30 modulati in AM, mi pare 50 o 60 FM e 60 in SSB. Cavolo, è buono, eh? Sì, comunque questi qua escono tutti con la marca Nittone all'inizio, poi la Intec, la CRT e tutti gli importatori o produttori che non producono niente, poi ci mettono il nome, li mettono il loro nome, e come in questo caso CRT 7009, e hanno fatto l'apparato, ci mettono solo l'etichetta praticamente. Però alla fine in origine è a Nittone e sono tutti fatti in Cina o limite in Malesia, sì. Hey, capo, l'importante è che funzionino bene, perché sono belli apparati, li ho visti, sono bellissimi, costano un po', però aspetta, ne vale la pena. E poi mi, se vai a vedere, fra questo lo paghi quanto un 7000, quanto un Superstar 3009, mi, perché per esempio dalla Spagna, ma anche dall'Italia, il Superstar 3009 costava intorno ai 190 euro dall'Italia, e quindi garanzia italiana e tutto, e questo siamo lì, 190, siamo a filo dei 200 euro, perché non è il più potente, quello più potente siamo intorno ai 230, dai, prezzo onesto sarebbe 220-230. Poi ci sono anche i ladri che se lo ti chiedono anche 250 per il 9009, però lì i prezzi sono alti. Comunque io ho sempre preso dall'Italia per via della garanzia, perché se dà problemi all'inizio almeno te lo cambiano o te la aggiustano, ma se compri dalla Cina, Antonessa, cosa vuol dire? Vuol dire usa e gettami, se si rompe, a parte che non te ne aggiusta nessuno, fuori garanzia, capito Antonessa? Sì, certo, capito, c'è un ballo di 0,35 centesimi, fa da 1 a 30 megahertz in tutti. Bello, eh? C'è anche il piede e stai usando anche una bella antenna. Come cinese, cazzo, va bene, antenna in fibra di vetro, 144, 430, 52 euro, poi aspetta cosa c'è. A parte i pacciucci che ci sono, cazzo, tutti in questo bella bagno, cazzo. Se si presentano così in casa tua, a caso, non è come male con la porta aperta. OCZH15AC15A FU15A FM3PLL 70 euro e 49 centesimi, mica è sceso il trasmettitore FM. Bello, anche il video c'è, mi dicendo, con la magnetica, poi anche la magnetica addirittura, la puoi attaccare allo smartphone, dopodiché lui trasmette, hai capito, bello, 79 euro e 49 centesimi, questo il mese prossimo me lo prendo, c'è l'attacco a pizza, BNC dietro col cavetto, l'animatore, è la magnetica. Bravo. Ma Antonio, a questo proposito ti stavo dicendo che quel rosmetro che volevo prendere io, un po' costoso, no? Questo Daiwa, fa da 1,8 MHz fino ai 200 MHz. Quello significa che va bene sia in HF sia in GB, sia in 43 MHz, cioè tutte le frequenze intermedie te le fa, compresa la banda FM. Quindi con quell'osmetro puoi controllare anche quante stazionarie avresti con quell'apparecchietto lì, capito? In modo da tarare l'antenna. E io ci ho capito. Che se mi c'è un bar, un malo motore di 931 euro. Adesso va bene, adesso la prossima spesa che faccio è il trasmettitore FM. Bracchi lo ce l'ho. Se invece il trasmettitore FM sono a posto. Un'antenna adatta magari, cioè anche la discone, purché risuoni lì, perché se poi c'hai tre di stazionari, Antonè, i finali partono poi, alla lunga partono, anche perché lì non è una cosa che tu premi e parli e molli, quella è una cosa che rimane sempre in trasmissione, quindi i finali scalderanno anche un pochino, se c'è stazionari poi non te ne dico, rischi di bruciarli. Riprendi Franco, Antonè, comunque l'1 è 22, abbiamo battuto il record di ieri di 7 minuti. E io ho già capito. Comunque c'è anche cosa, trasmettitore, questo è il NICET, PLL stereo FM, trasmettitore radio, stazione, 500 microwatt, frequenza stazione 108 per casa campus amplificatore dal mode. Questa è una cazzata, una cazzata, questo non fa un cazzo. Sento un pulito, cazzo, con la virata. Vabbè, comunque la prossima spesa che facciamo è mi ordino quel trasmettitore FM, mi ordino. Fammi l'albero telescopico, cazzo, come riesco a posto, cazzo? Agganciare delle dal camper, cazzo. 862,75 centesimi, 5 metri, pneumatico albero, antenna telescopica, fuori gamma, bello mega. Ci puoi agganciare la mantova sopra e ti fa di ex. Ehi, lascia perdere che una volta, Antonè, ero da fermo e l'ho piazzato da fermo, avevo l'antenna HF con ricevitore Texun, il baracchino, quindi l'antenna e baracchino e anche l'antennino piccolo magnetico VEU per ascoltare sempre, no? Sembrava il furgone delle scopposte, ci mancava solo quello che hai detto tu, quel coso telescopico. Tradisce il palo telescopico. Sì, io lo so. L'unica cosa è quella. Qui c'è un bello bambella, c'è la verità. Vabbè, a parte come si chiama, questo cazzo è. Questo microfono. La nota cabine C. Adesso l'ultima cosa che mi piglio è quello. Trasmettito le femmine si va bien culo. Non mi interessa nient'altro, poi ne ho finito. Beh ragazzi, io me ne vado andando, mi sto sapendo di luce. Ci sentiamo, dai, a parte che mi devo portare presto domani mattina. Ci sentiamo, buonanotte, buon tutto, buon proseguo e ce la ascoltiamo alle prossime. Avanti Marco. Ehi, ciao Franco, buonanotte, buon tutto. Comunque ce l'abbiamo fatta a superare il primato, dai. E ci sentiamo nel prossimo, dai. Oggi siamo giusto, sull'11 ci eravamo spostati. Ho detto come mai 11, è vero, ci eravamo spostati quando c'era ancora Giovanna. Ciao Fra, di nuovo, buon tutto e buona giornata per domani. Vai Antonello. Ciao Fra, ci sentiamo, buonanotte, alle prossime. Buon quiditi, buon tutto. Adesso vedete me. Ci organizziamo, hai capito? Facciamo fino alle 5 del mattino, facciamo. Fate tutta la notte, facciamo per esattezza. Io per quello sono ammazza, Simona, faccio da qui a giù, faccio intanto, prima cedo giù, poi salgo su, poi faccio dei assaggini, poi scendo di nuovo giù, e così mi diverto, sento tutto il fumo, da fuori non ho capito se sta pieno fuoco qualche caminetto, boh. Comunque Marco, oggi siamo già domani, ciao, buonanotte. Sì, praticamente sì, e quindi domani dovremo infrangere il coso, vabbè, dai, già siamo capiti. Antonio, ti volevo chiedere, ma Simona riesce a dormire con te che parli al baracchino nell'altra camera? Sì, io sono in salone. Comunque, volevo dire a Franco, aprami come trasmettitore FM e ti metto un po' di musica per dormire, così almeno ti rilassi. Poi mi dici se arrivo a sosso, ci metto un bel lineare per quella frequenza da 200 watt, a voglia che arrivo con l'impolo. Ma tu hai detto cosa vorresti attaccare? Un lettore CD? Cioè sei rimasto al CD ancora? Perché lì ci stanno pochi brani, lo devi cambiare, mentre se ci avessi un lettorino MP3 di quelli a chiavetta, vabbè che anche lì la batteria si consuma, quindi, però ci stanno centinaia di brani, migliaia di brani MP3. Ce l'ho quello, ce l'ho di DVD, con l'attacco, come dici tu, ce l'ho. L'ho trovato una mondezza per esattezza, funziona benissimo, completo di telecomando. Perché dipende dal lettore, ce ne sono di tante forme. Io usavo quelli che non so se li vendano più nemmeno, Antonè, quelli che hanno la forma di chiavetta MP3 di dimensioni un po' sostanziose per l'epoca, e ci metti una batteria da mini stilo da 1,5 volt. Usavo quelli lì e ne ho ne avevo da partire dai 512 megabyte, che erano piccoli tra virgolette, fino ai 2 giga, forse uno da 4, ma 4 giga, ma poi tutta roba buttata, dimenticata, alla fine non ascolto più musica come prima, con le cuffiettine fuori. E poi mi sono stufato anche di quello. Poi ce ne sono di tutte le forme, che sembrano dei mini computerini. Certi sono talmente piccoli che sembrano un pollice, no, la grandezza di un pollice, fino alla piega del pollice, già hai capito, piccoli, vabbè. Comunque il CD magari suona ancora meglio, chi lo sa, bisogna vedere che qualità di modulatore c'ha quell'apparecchietto anche, capito Antonè? Perché se cominciamo a saturare, a non fare la musica fedele, è male, andiamo. Adesso prima aspetto il prossimo mese, poi appena arriva lo proviamo, ti chiamo, capito, al telefono, io faccio i collegamenti, metto l'antenna e vediamo come funziona. Non ci vuole molto a fare la prove. Mi metto una radio in ricezione con le cuffie e mi devo uscire audio, capito? C'è bisogno anche di mixer, se no li collego il computer, vabbè, lo stesso, non costa niente, ci metto YouTube e va automatico da solo. Avanti, chi è? Direttamente avete YouTube, naturalmente bisogna dosare bene l'ingresso, Antonè, perché di solito come ingresso di musica gli dovresti dare un livello di audio costante, no? Con la presa, certi lettori ce l'avevano, una era la presa per cuffie con volume regolabile, una era l'audio costante proprio per queste cose, per evitare di saturare l'audio o per evitare che l'impedenza non fosse adatta. Comunque basta mettere una radiolina di monitor, una radiolina qualsiasi, e ti regoli. Poi mi pare che è il guadagno microfonico frontale. Una curiosità, ma ovviamente trasmette in FM stereo quella cosa, sì? Sì, c'è scritto FM stereo. È buono, carino. Cioè, il problema, le stazionarie, è lì una cosa delicata, capito? Non ha neanche pochissimi watt, forse quelli da proprio pochi watt, ma lì, vabbè, comunque, se avremo il rosmetro a disposizione è tanto riguadagnato. Detto ciò, Antonè, 1:30 in punto, ci sentiamo, io butto giù qualcosa nello stomaco e mi accendo la TV finché mi addormento in poltrona o a letto, ok? Ci sentiamo. Purtroppo oggi, vabbè, sa cos'è, Franco non la senti, cioè non si sentivano con Franco, quindi Giovanna anche a rimanere all'ascolto, si sarà stancata e ha chiuso. Magari se siamo tutti a Sassari riusciamo a fare rotta meglio. Ok, dai, alla prossima, buonanotte, buon tutto, ciao a chi è entrato, sento un bel eco, bello pimpante. Ciao Tone, ciao a tutti quelli che ascolto, buonanotte, buon tutto, a domani. E io, ciao Marco, ci sentiamo domani, stammi bene, buon tutto. Vabbè Giovanna, posso fare il meglio, c'è la magnetica agganciata alla cosa della finestra, figurati tu. Quindi in camera da letto mi fate guardare che i terrazzi la freddano. Adesso cerco di studiarmi qualche piazza lunga in modo da agganciargliela di lì, camera più tranquilla, vedo la magnetica lì fuori, il punto più bello è quello dove c'è la finestra di camera da letto, perché c'è tutto aperto, c'è il carbonato aperto, la zona di coso, quindi andrebbe benissimo. Il problema è che vuole ampliata, capito? Non è che puoi agganciare la magnetica così alla dove scende la tapparella, capito? È agganciata a ferro la tapparella. Sì, e poi aveva anche da fare per domani, capito? Non è che può rimanere fino alle ore piccole e poi si deve alzare presto, non fa. Io ancora, cioè posso andare anche tardi, le bollette se non si pagano domani, si pagano dopodomani, capito? Purtroppo Abbanoa, ribadisco, Abbanoa, porca miseria, è l'unica che non puoi pagare al tabacchino. Se no al tabacchino entravi e uscivi, invece li devi andare alle poste, magari c'è qualche disgraziato in fila, devi aspettare, poi con questa menata delle mascherine e dei guanti non ne posso più. D'altronde dicono sia necessario, ma chissà le balle che ci hanno detto fino a oggi, per carità di Dio. Speriamo che arrivano gli alieni, cazzo, almeno ci sistemano come si deve a noi, cazzo. Ci trovano tutto, ci trovano il virus, ci trovano quello che abbiamo, capito? Speriamo che tengano gli UFO, cazzo, almeno ci vogliono bene a noi. Ogni tanto ci disintegrano uno di quei cantoni che arrivano sulla terra, saranno vero. No, dicevo, o meglio degli UFO ci vorrebbe un bell'asteroide bello grosso, in modo da spazzare via tutto. E buon viaggio. No, se io voglio così grande, no. Uno piccolo, sai dove? Quando si riuniscono i parlamentari e gli enti dentro, capito? In modo da ammazzarli tutti. In modo che facciano il Parlamento nuovo, capito? Facciamo nuove elezioni e quelli lì non guardano più un accidente. Sì, e che ci metti? E poi sai cos'è Antonio? Non riesci a beccarli tutti in Parlamento, perché un bel sono assenteisti, cioè vanno a lavoro quando ne hanno voglia, capito? Quindi non riuscirai mai a beccarli tutti in un punto, in una volta voglio dire. E poi chi ci metti? Cioè, sono tutti uguali, politici, destra, sinistra, centro, 5 Stelle, verdi, rossi, neri. Va bene. Esecutivo, buonanotte e ci sentiamo, ciao. Ciao, buonanotte, a domani. Quindi aspetta che prendo l'ora, le 2:25, ricordiamoci il primato, ciao Antone, ciao.